L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. La corrida è un'istituzione spagnola, non è nata per gli stranieri e i turisti, ma loro malgrado, e ogni passo che la modifichi per assicurarsi la loro approvazione, che non si otterrà mai, è un passo verso la sua soppressione completa. Sono le parole, mi verrebbe da dire, profetiche in questi giorni, scritte nel lontano 1932 da Ernest Hemingway nel libro Morte nel pomeriggio. Le ho scelte perché in questi giorni, ricordando naturalmente che Hemingway era un appassionato della corrida, così come la corrida ha ispirato l'arte di molti geni spagnoli, da Picasso a Goya a García Lorca, ebbene in questi giorni il governo catalano ha deciso di abolire la corrida almeno nella regione di Barcellona. Immagino che a molti l'ascolto farà piacere questa notizia, soprattutto all'anima animalista di chi ci ascolta. Io invece, francamente, tra l'anima del toro e quella di Hemingway, preferisco quella di Hemingway. Trovo la corrida, insomma, una tradizione straordinaria spagnola, con tutta la sua crudezza e anche certi valori forse in parte superati, però insomma, ripeto, tra la corrida e il toro avrei sacrificato il toro. Sicuramente molti si arrabbieranno. Sono qui ad accogliere i vostri commenti, ottavo giorno at radio24.it. Visto che è l'ultima puntata, vi do anche il telefono per gli sms 349-238-6666. Adesso però ascoltiamo la cronaca di quello che è successo realmente in Catalogna con questa bella controcopertina firmata da Sergio Nava nei GR della mattina di giovedì. Gli echi di sangue e arena non hanno suscitato particolari nostalgie ieri tra i banchi del Parlamento catalano, che ha deciso stop alle corride in tutta la comunità a partire dal 1 gennaio 2012. La Catalunya diventa così la seconda regione spagnola, dopo le Canarie, a proibirle. Il voto, largamente in bilico, ha spaccato l'assemblea. Una vittoria storica per Prou, la piattaforma civica che con le sue 180.000 firme ha promosso la petizione per l'iniziativa legislativa popolare. Elena Escoda, attivista di Prou, rivendica a Radio 24 le ragioni dell'iniziativa. Per la con gli animali, solamente per questo. Noi non rappresentiamo il nazionalismo, un debate di identità culturale. Ma sotto traccia, al di là del folklore, si è giocata la vera partita politica. Basta dare un'occhiata agli esiti del voto. Tutti i partiti nazionalisti e autonomisti catalani hanno votato in blocco contro la corrida, mentre i deputati dei partiti centrali, socialisti e popolari, si sono espressi in maggioranza a favore, compreso il presidente regionale Montilla. E se a parole tutti negano risvolti politici, adducendo ragioni puramente animaliste, risulta evidente come la bandiera taurina abbia rappresentato l'ennesimo pretesto per espellere dalla Catalunya un altro pezzo di cultura iberica. Madrid e Siviglia sono lontane. Da anni Barcellona respinge la tauromachia come puro folklore spagnolo, preferendoli il ballo della sardana, vero simbolo catalano. Il voto di ieri rappresenta un altro avvertimento dopo le recenti diatribe sullo statuto autonomo catalano, castrato dal Tribunale Costituzionale spagnolo. Resta da chiedersi quali saranno le prossime mosse di questa partita a scacchi politica tra Barcellona e Madrid. Naturalmente è un caso, ma l'abolizione della corrida arrivata in settimana dalla Catalogna si abbina invece a un'altra notizia sicuramente minore che riguarda Beppe Bigazzi. Ricorderete, epurato dalla prova del cuoco su Rai 1 per aver ricordato che in tempi di guerra si mangiavano i gatti. Ebbene, Beppe Bigazzi da settembre tornerà su Sky e lo ha anche piacevolmente intervistato Cruciani nei giorni scorsi alla Zanzara. Adesso mi tocca l'arduo compito di riassumere in pochi minuti la settimana politica italiana, compito arduo perché davvero ogni giorno ne sono successe di clamorose, di fragorose, quindi è difficile veramente compattare in pochi istanti, in pochi servizi questa settimana politica. Però insomma, per togliermi un po' dall'impaccio, ho pensato che fosse il caso di procedere secondo l'ordine cronologico dei fatti per poi avvicinarci a quello che è il climax delle ultime ore, dunque la rottura netta plateale tra Berlusconi e Fini. Faccio un'altra premessa perché il nostro racconto procederà praticamente tutto all'interno della maggioranza del governo. Qualche ascoltatore mi ha già chiesto in anticipo di non tralasciare ad esempio invece la sfida lanciata da Vendola alla PD, quindi questione di centro-sinistra. Però insomma, permettetevi una precedenza giornalistica. In questi giorni francamente a tenere banco è la crisi più o meno ammessa all'interno del PDL. E dunque, riavvolgiamo il nastro, torniamo a 7 giorni fa, il terreno di scontro sabato scorso si chiamava Fabio Granata, pupillo e fedelissimo di Fini. Sentiamo la cronaca di Elisabetta Fiorito. Questa volta tra l'ala finiana e la maggioranza PDL ci si mette di mezzo la questione morale e lo scontro si fa sempre più duro nel partito del Premier. Sollevata dal capo dello Stato Giorgio Napolitano, la problematica fa breccia tra i finiani, tanto che Fabio Granata insiste nella richiesta di affrontare decisamente la questione morale. Si difende la maggioranza PDL, prima con l'intervento del ministro degli esteri Franco Frattini. La legalità è nel nostro DNA, nessuno può farci lezioni di questione morale. Poi con la replica di Maurizio Lupi, che è molto più dura. Coloro che non si ritrovano non solo nel nostro partito, ma hanno parole durissime e tra l'altro strumentali nei confronti del Popolo della Libertà, o vanno via dal partito o c'è un luogo che dove ovviamente deve essere giudicato il suo atteggiamento, che si chiama probiviri. Ma Granata non si scompone: se i probiviri del partito devono processarmi, allora lo devono fare anche con Verdini e Cosentino, i due implicati nella vicenda della cosiddetta loggia P3. Lunedì il presidente della Camera Fini rilancia su un tema a lui caro, la questione morale, che è forse il cavallo di battaglia principe di questi mesi alla Camera ma anche all'interno della maggioranza. Sentiamo i suoi strali da Napoli con Laura Viggiano. La legalità deve essere una bandiera del PDL e bisogna chiedersi se è opportuno che chi è indagato mantenga incarichi politici. Il presidente della Camera Gianfranco Fini, intervenendo telefonicamente ad una convention a Napoli, non prende le distanze dalla deputato Granata e incrementa le tensioni all'interno del Partito delle Libertà. Quando uno pone la questione morale, dice Fini, non può essere considerato un provocatore e non si può reagire con anatemi e minacce di espulsioni. Immediata la reazione del coordinatore del PDL Sandro Bondi, che sottolinea come il presidente della Camera venga meno ai doveri del suo ruolo istituzionale. Credo, dice, che non ci siano precedenti in Italia di interventi così marcati e ripetuti nel dibattito politico da parte di chi ricopre un ruolo del genere. Contemporaneamente poi c'è tutto il delicatissimo filone delle inchieste che agita il PDL, e su questo ho trovato folgorante un'immagine che ci ha regalato sul Corriere della Sera Goffredo Buccini, bravissimo cronista, tra l'altro è colui che diede per primo e unico lo scoop dell'avviso di garanzia a Berlusconi nel 94, quando presiedeva il G7 di Napoli. Quindi torniamo veramente all'archeologia di questa seconda repubblica, è un po' la madre di tutte le questioni, le contese tra Berlusconi e la magistratura. Ricordiamo che per quel fatto poi Berlusconi venne completamente assolto da ogni addebito, però insomma all'epoca il Corriere della Sera di Mieli diede per primo, quasi prima di darlo a Berlusconi, l'annuncio dell'avviso di garanzia nei suoi confronti. Ebbene, Buccini ha parlato di una specie di gioco dei 10 piccoli indiani che è diventato l'estate del PDL, e fa l'elenco poi dei tanti personaggi illustri all'interno della maggioranza del governo coinvolti in inchieste più o meno scabrose: Bertolaso, Cosentino, i ministri Scajola e Brancher, che in questi giorni nel frattempo è stato condannato in primo grado per la scalata Anton Veneta, poi Verdini, Marcello Dell'Utri, insomma in quella che testualmente Buccini definisce una pattuglia così di rango da poter costituire, volendo, un governo bis di soli indagati. Parole durissime quelle di Buccini, che ci introducono a un'altra vicenda significativa di questi giorni, ovvero il lungo interrogatorio a Denis Verdini, coordinatore del PDL, che avviene lunedì, e ce lo racconta questo servizio di Raffaella Calandra. All'arrivo in procura, per declinare le domande dei giornalisti, aveva detto che voleva usare bene la sua voce. Di sicuro Denis Verdini l'ha usata a lungo, e all'uscita da Piazzale Clodio ha replicato pure a Fini. È impropria, ha detto, la sua richiesta di dimissioni. 9 ore di interrogatorio ieri per il coordinatore del PDL, nello stesso giorno del suo pubblico addio alla presidenza del Credito Cooperativo Fiorentino. Una decisione indotta dalla tempesta giudiziaria e mediatica scatenata contro di me, ha contrattaccato Verdini, provocando poco dopo le dimissioni dell'intero consiglio d'amministrazione della banca. Il sistema della nuova P2, le presunte pressioni sui magistrati, le cene a casa sua per concordare nomine, ma anche gli appalti entrati nell'eolico e i giri di soldi col faccendiere Flavio Carboni. Di tutto questo gli è stata chiesta ragione dai PM, che lo accusano di corruzione e violazione della legge Anselmi. Neghiamo qualsiasi partecipazione a società segreta, è la difesa dell'avvocato Coppi, secondo cui tutto sarebbe stato spiegato. Il nodo più difficile nell'interrogatorio, quei movimenti di soldi giudicati sospetti dagli stessi ispettori di Banca Italia esaminando la contabilità del credito cooperativo. Soprattutto c'è un'operazione del 2004 da 2,6 milioni, ci sono i passaggi di assegni con Carboni e ci sono i soldi transitati anche attraverso il conto della società toscana di edizioni. Il sospetto degli inquirenti è che fossero stati pagati dagli imprenditori per accedere agli appalti sull'eolico. Bisogna poi ricordare che Verdini è stato protagonista di una incandescente conferenza stampa affollatissima da giornalisti ma anche da big del partito mercoledì nel quartier generale del PDL in centro a Roma. Tra l'altro c'è stato anche uno scontro tra Giuliano Ferrara e una giornalista dell'Unità per una domanda, diciamo così, non proprio ovattata rivolta a Verdini. Comunque la temperatura continua a salire all'interno della maggioranza, si allunga l'elenco delle persone coinvolte in inchieste, c'è anche in questi giorni il nome del sottosegretario Caliendo. Ebbene, giovedì sera si arriva di fatto al divorzio ufficiale o quasi tra Berlusconi e Fini. La cronaca è ancora di Elisabetta Fiorito. La rottura paventata alla direzione nazionale PDL lo scorso aprile è arrivata prima della pausa estiva. Il premier Silvio Berlusconi caccia il cofondatore del partito Gianfranco Fini insieme ai suoi seguaci dopo un brevissimo ufficio di presidenza in serata a Palazzo Grazioli. Durante la giornata sembrava ancora esserci spazio per una soluzione interlocutoria come la sospensione, ma il premier non retrocede e non ha dubbi, Fini se ne deve andare, facciano pure gruppi autonomi, tanto sono fuori. I nostri elettori non tollerano più che nei confronti del governo vi sia un atteggiamento di opposizione permanente, condotto per di più da uno dei vertici delle istituzioni di garanzia. Non sono più disposti ad accettare una forma di dissenso all'interno del partito che si manifesta nella forma di una vera e propria opposizione, prefigurando già l'esistenza sul territorio in Parlamento di un vero e proprio partito nel partito. Mi si stringe il cuore, avrebbe detto Berlusconi, non avrei nemmeno voluto partecipare a questo incontro perché questa decisione non la vivo a cuor leggero, ma non possiamo andare avanti così. E Berlusconi pretende anche la testa di Gianfranco Fini da presidente della Camera, contesta il ruolo politico assunto dopo le regionali e chiede che siano i membri del Parlamento ad assumere iniziative al riguardo. Ieri è arrivata puntuale la replica di Fini, oggi potete ascoltare ampie cronache nei GR di Radio 24, è già partito naturalmente poi il conto spasmodico di quanti siano i finiani alla Camera e al Senato, se siano meno in grado di mettere in difficoltà la maggioranza nelle due aule del Parlamento. Segnalo Stefano Folli ieri in prima pagina sul Sole 24 Ore che ha parlato di vittoria di Pirro di Berlusconi e soprattutto adesso bisogna guardare con attenzione allo scenario della crisi che secondo molte persone si può aprire inevitabilmente dopo l'estate o anche prima, chi lo sa, e soprattutto cercare di capire che ruolo giocherà la Lega. Infatti non c'è dubbio che la Lega stia pensando al federalismo, però con una maggioranza così risicata è davvero difficile portare a casa riforme tanto importanti o comunque altri passaggi delicati in Parlamento come il controverso disegno di legge sulle intercettazioni che nel frattempo in questo marasma generale della maggioranza è sfilato, insomma, ed è stato rimandato a settembre. In tutto questo caos forse c'è comunque un dato per sorridere all'interno della maggioranza, ovvero l'approvazione della manovra che giunge giovedì. Il resoconto è firmato da Vincenzo Miglietta. 329 sì, 275 no, il governo incassa la fiducia della Camera ed oggi il decreto correttivo dei conti pubblici sarà convertito in legge. La manovra esce da Montecitorio così come già approvata dal Senato, con la stretta su dipendenti pubblici, assicurazioni ed evasione fiscale. Vi è poi la riforma delle pensioni e i tagli agli enti locali e ai costi della della politica. Entrano nel testo anche i rincari autostradali e le norme per la libertà di impresa. L'intervento si è reso necessario, spiega il presidente del Consiglio Berlusconi, per mettere in salvo il paese dagli speculatori e contro il rischio Grecia. È un provvedimento questo, aggiunge in aula il capogruppo del PDL Cicchitto, che guarda anche allo sviluppo. La congiuntura è in ripresa, le stime di crescita per l'anno in corso sono state riviste al rialzo, tirano le esportazioni, contribuendo a lenire il dramma della disoccupazione. Critica tuttavia l'opposizione, che boccia il ricorso alla fiducia e i contenuti della manovra, così il segretario del PD Bersani. Questa manovra è profondamente ingiusta, essendo ingiusta è anche depressiva. Per forza, e indebolirà i tenui segnali di ripresa. Arriverà infine oggi il via libera ufficiale di Palazzo Madama al taglio di 1000 euro allo stipendio dei senatori. E visto che siamo entrati ormai nel versante economico e tra poco parleremo di Fiat, ne approfitto per parlare anche di una nuova rubrica che è stata inaugurata lunedì su Radio 24, va in onda all'interno dei GR delle 7 e delle 13 qui della nostra radio. Si tratta di Venti di ripresa, ovvero la cronaca dell'Italia che riparte. Siamo sempre in un clima di difficoltà, di ripresa stentata, difficile, insomma i dati parlano chiaro, però c'è già chi ha imboccato la strada della ripresa. Allora, tra i tanti racconti che Radio 24 ha proposto in questa settimana, riascoltiamo Stefano Tottolo da giovedì mattina. I primi sei mesi abbiamo recuperato circa il 6%, ancor di più in ordinativi, che hanno segnato circa un più 9% rispetto al 2009. Gianni Tanini è amministratore delegato di Devon & Devon, azienda di fornitura di interior decoration, dedita in particolare alle stanze da bagno. Toscana Doc Fiorentina opera soprattutto nel settore del lusso, circa 19 milioni di fatturato annuo, 50 dipendenti. Nel 2009 ha registrato una flessione degli ordini e dei ricavi, questi ultimi in particolare scesi del 9%. Crisi, dice il numero uno di Devon & Devon, dovuta ad un clima di sfiducia generale che si è tradotto in una forte contrazione del mercato interno, una fetta che per l'azienda vale il 40% del fatturato. Ora i ricavi tornano a crescere, la parola d'ordine per la ripresa è stata investimenti. Abbiamo investito sempre più in pubblicità, in fiere, prodotti e soprattutto nell'apertura di negozi in monomarca, convinti che per garantire lo sviluppo e la notorietà del nostro marchio sia sempre più necessario investire in una strategia di qualificata espansione internazionale. Abbiamo discusso pochi minuti fa della manovra economica da oltre 20 miliardi che è stata approvata in Parlamento. La cifra è più o meno quella che la Fiat è pronta ad investire in Italia nei prossimi anni. Il nesso, il collegamento tra la manovra e i soldi che la Fiat ha pronti per il nostro paese, lo ha fatto direttamente Marchionne, che mercoledì ha parlato a Torino. Marchionne ha usato come sempre un linguaggio chiaro, netto, a volte duro, come è nel suo stile, ha difeso naturalmente la scelta di fabbrica Italia, ha detto, leggo testualmente dal suo intervento, che ormai si è di fronte ad un bivio, cioè se avere una forte industria dell'auto in Italia oppure lasciare questa prerogativa ad altri paesi. Ci sono sostanzialmente due risposte, o sì o no, e ha detto ancora Marchionne, qualunque sia la risposta, la Fiat è disposta a gestire entrambe le scelte. E poi ha detto un'altra cosa molto forte, riferendosi a Fabbrica Italia. Ha detto: non è un accordo, è un nostro progetto, non è stato concordato né con il mondo politico né con il sindacato. Per questo è incredibile la pretesa che ho sentito, ho riferito naturalmente a se stesso Marchionne, più volte rivolgere alla Fiat di rispettare un presunto accordo. Insomma, non c'è dubbio, è stata un'altra settimana intensa per la Fiat, dopo che la settimana scorsa ancora Marchionne aveva annunciato lo spostamento in Serbia di una fetta importante della produzione. Direi che i passaggi fondamentali di questi giorni sono stati, da un lato, l'annuncio di Fabbrica Italia e poi il tavolo che è stato repentinamente messo in piedi mercoledì dal ministro Sacconi per discutere con tutte le parti in causa proprio del futuro della Fiat. Sentiamo su questi due aspetti cruciali, prima Stefano Tottolo mercoledì mattina e poi da Torino Paolo Piacenza nei GR di ieri mattina. L'annuncio dell'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne di voler portare in Serbia la produzione della nuova monovolume ha già creato nei giorni scorsi malumori nel mondo sindacale e in quello politico. Il governo si dice ottimista, i sindacati sono ancora divisi, oggi si conoscerà l'esito dell'incontro. Intanto, alla vigilia del tavolo fra Lingotto e le parti interessate, Fiat comunica la nascita di una nuova società. Come anticipato dall'agenzia di stampa del Sole 24 Ore Radiocor, si chiama Fabbrica Italia Pomigliano ed è sostanzialmente un passo preliminare per la nascita di una nuova azienda in cui riassumere con un nuovo contratto i 5.000 lavoratori attuali della fabbrica campana. Quel progetto per il quale Fiat ha raggiunto lo scorso scorso 15 giugno un accordo con i sindacati, non firmato però dalla FIOM. Giovedì, anche per questo, i sindacati sono stati convocati a Torino. Ma c'è un'altra questione, basata più su affidabili indiscrezioni che su annunci formali, che agita il mondo imprenditoriale. Fiat avrebbe intenzione di uscire da Federmeccanica e disdire il contratto di lavoro nazionale che regola il rapporto con i dipendenti del gruppo. La disdetta del contratto nazionale di lavoro, che diventerebbe operativa il 31 dicembre del 2012, interesserebbe 25.000 dipendenti. Il giorno dopo l'out-out di Sergio Marchionne, dal tavolo di Torino tra azienda e sindacati emerge con chiarezza la strada che il Lingotto intende percorrere. Il nuovo accordo per Pomigliano diventa il modello delle future intese che si cercheranno stabilimento per stabilimento. L'azienda annuncia che dovranno essere introdotte altre deroghe al contratto e comunica la disdetta degli accordi del 1971 sul monte ore dei permessi sindacali. Viene anche letta la lettera con cui Fiat annunciava la sua uscita da Confindustria, ma l'azienda comunica che fino a inizio novembre sarà messa da parte per cercare un'intesa complessiva all'interno del quadro esistente. Wilm, FIM e Fismic dicono che ci sono le condizioni per andare avanti, mentre da FIOM arriva una bocciatura per bocca del responsabile auto Enzo Masini. Non eravamo e non siamo d'accordo con quell'intesa per ciò che riguarda Pomigliano, non lo siamo, tanto più disponibili per un'estensione di quel modello. Quanto a Fabbriche Italia Pomigliano, la NewCo, costituita il 19 luglio, partirà a settembre con la riorganizzazione dello stabilimento e almeno per ora non sarà iscritta Confindustria, ma questo, dice il segretario nazionale Wilm Panicali, non è un problema. Non lo consideriamo un problema perché per tutto il gruppo di Fiat Auto riusciremo a trovare una soluzione contrattuale, e se troviamo una soluzione contrattuale chiaramente questa potrà essere applicata anche alla NewCo. In collegamento telefonico con noi c'è Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Allora, tu hai seguito da vicino la vicenda Fiat, naturalmente è centrale anche per un giornale come il nostro, come il Sole 24 Ore. Hai scritto un articolo in prima pagina sul giornale, sul Sole di giovedì. Io vorrei partire proprio da quello per ampliare la riflessione dopo i servizi che abbiamo ascoltato. Provo a leggere così rapidamente, soprattutto per chi non ha letto l'articolo, tra le righe, e sintetizzare un po' il tuo concetto. Posto insomma che il modello novecentesco, diciamo così, che ha accompagnato un secolo di storia della Fiat, di rapporti con la politica, col sindacato, con le scelte industriali legate al nostro paese, ormai è superato. Marchionne ha imposto di fatto un'accelerazione che tu hai definito rivoluzionaria, che costringe un po' tutte le parti in causa, la politica, il sindacato e anche Confindustria, si pensi al timore, alla minaccia poi rientrata di un'uscita di scena addirittura da Confindustria della Fiat, costringe tutti un po' ad accelerare a loro volta e quindi a cambiare lo scenario in vista di un mercato globale. Tu mi sei sembrato decisamente ottimista per il futuro, sostieni insomma che questa è una grande opportunità che tutti devono sfruttare. Io vorrei che tu articolassi questa mia breve sintesi, tenendo conto invece di quello che ha scritto in maniera direi quasi opposta alle tue parole Luciano Gallino, il noto sociologo, su Repubblica sempre giovedì, cioè ha parlato di scelte Fiat un po' frenetiche e dall'altro ha detto che c'è il rischio non di diminuire ma addirittura di aumentare il conflitto sociale, imponendo in sostanza un modello a ribasso delle condizioni di lavoro. A te la parola, Alberto Orioli. No, io non credo che questo sia il punto. Il punto è che la spallata di Marchionne ci costringe a ragionare su cosa significa effettivamente la globalizzazione per chi produce dei beni che si vendono su scala planetaria. Significa avere più velocità nelle decisioni, siano esse aziendali o siano esse di contorno politico, come possono essere delle decisioni che riguardano accordi di relazioni industriali. Significa ragionare al millimetro sui margini di profitto e di competitività e di produttività che i prodotti richiedono per essere venduti senza perderci. E significa ragionare in chiave di mondo come dislocazione degli impianti attraverso i quali produrre i beni che devi vendere. Forse è la prima volta che ci capita di dover ragionare su un personaggio e quindi sulla conduzione di un'azienda che il martedì si incontra con Cota, Sacconi e Landini e il venerdì si prende il plauso di Obama. Sì, perché ricordiamo che ormai Marchionne è lontano, insomma è già volato negli Stati Uniti a pensare a Chrysler e tutt'altro. Esattamente, quindi ecco, diciamo, se volessimo fare una domanda provocatoria rispetto ad alcune scelte strategiche, voi cosa fareste, che preferireste tra Landini e Obama? Credo che può essere una grande provocazione, ma è quello che accade nell'agenda del manager di cui stiamo parlando e di cui stiamo commentando le scelte. Ma quindi a tuo giudizio la forzatura, comunque il rinnovamento di certe scelte, di certi contesti che sta imponendo Marchionne, che ha naturalmente una visione orientata anche al mondo anglosassone che conosce molto bene, secondo te alla fine prevarrà, cioè spingerà tutti, sindacato, politica, la stessa Confindustria, tra virgolette, ad adeguarsi, anche perché mi sembra di capire che non ci siano poi grosse alternative. No, non ci sono grosse alternative, soprattutto quello è il sentiero che era già stato tracciato dalle stesse parti sociali che hanno firmato la riforma dei contratti un anno fa. In quel testo, così sofferto che la CGIL ancora non ha voluto sottoscrivere, c'è già scritto tutto, c'è già scritto che bisogna derogare laddove è necessario per aumentare la flessibilità nell'uso degli impianti e per aiutare gli incrementi di produttività, che peraltro vanno retribuiti e ben retribuiti laddove si verificano chiaramente, perché questa è la contropartita di quell'accordo. Quindi non ci sarà nessuno strappo, voglio sperarlo, anche perché io ho sempre sostenuto, e lo sostengo anche qui, che la pace sociale, la coesione sociale garantita da un meccanismo di relazioni industriali moderno e comunque anche invidiato all'estero è una risorsa e va mantenuta, per quanto comunque vada modernizzata. Domanda più generale, Alberto, che riguarda la Fiat, ma non solo, riguarda il mondo del lavoro, ma altri settori della vita pubblica italiana. Marchionne ha ottenuto di fatto la deroga che chiedeva su Pomigliano, ma perché in questo paese bisogna sempre procedere per deroghe e non si procede a delle riforme sostanziali? Insomma, questo statuto dei lavoratori, ormai è vecchio di 40 anni, potrebbe essere una buona volta modificato in meglio a questo punto, ammodernato perlomeno. Certo, è molto giusto quello che dici, è molto anche complesso, perché poi sul tema del lavoro, che è un tema ad altissima sensibilità perché riguarda le persone, è il, come dire, l'elemento più umano dei temi dell'economia, se così vogliamo dire, che precipita i numeri poi sulla pelle della gente, quindi è chiaro che stiamo parlando di argomenti che hanno intrecci anche emotivi, anche simbolici molto forti, e quindi è evidente che hanno dei tempi poi di metabolizzazione molto più lunghi di altri processi, però queste cose servono, spesso hanno bisogno appunto di accelerazioni, di spallate, di sfide, di provocazioni per trovare dei nuovi assestamenti, è la fase che stiamo vivendo ora, ma sicuramente abbiamo bisogno di una sistematizzazione che non proceda più per deroghe, ma che proceda per un quadro certo di regole che poi valgono per tutti. Alberto, ultima domanda che naturalmente è collegata al discorso che abbiamo sviluppato in questi minuti. Giovedì, ascoltando 9 in punto, la trasmissione di Oscar Giannino qui in diretta su Radio 24, lo stesso Giannino e uno dei suoi ospiti, Massimo Mucchetti, si sono trovati d'accordo nel dire, e tra l'altro hanno entrambi l'età, insomma, per ricordare certe stagioni di qualche decennio fa, hanno detto va bene modernizzare, eccetera, ma insomma attenzione, lo si faccia con grande cautela, perché altrimenti potrebbero tornare in fabbrica le pallottole, quindi ritornare gli anni di piombo. A tuo avviso c'è questo rischio nell'aria? Ma questa è una cosa terribile, non ho nessuno strumento, nessun elemento per poterlo confermare, rimango atterrito e chiaramente mi spaventa un'idea del genere. Non a caso ho detto che il patrimonio di relazione industriale che ha garantito la coesione sociale anche in momenti molto difficili va preservato ed è un asset strategico fondamentale del nostro modo anche di essere italiani nelle cose dell'economia e della produzione. È chiaro che però va adeguato, va modernizzato, ma chi ha delle esigenze produttive che ha bisogno di risposte veloci perché produce auto, ha una scadenza nel suo dover sfornare modelli in continuazione nuovi perché la clientela quello gli chiede e lui questo pone come sua priorità di fronte alle scelte poi collettive. Poi chi media invece sulle scelte collettive dovrà imporre o comunque adattare la sua di agenda e tentare di applicare questi nuovi modelli con tutte le cautele del caso e appunto garantire al massimo la pace sociale. Grazie ad Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, credo che da settembre poi la partita sarà ancora aperta e combattuta. Allora ringrazio ancora Alberto Orioli, ricordo che a proposito di conti Marchionne ci ha tenuto a precisare che in un quadro positivo per la situazione Fiat l'Italia rappresenta ancora una situazione di sofferenza proprio dei conti. Ed ora apriamo un breve squarcio nella cronaca che ci riporta invece a sabato scorso a Duisburg, dove durante la Love Parade, questo straordinario imponente raduno con oltre 1,5 milioni di persone per il festival di musica techno, purtroppo 21 persone, tra cui anche un'italiana, Giulia Minola, una bresciana di 21 anni, hanno perso la vita soffocate nella ressa che si scatena all'interno di un tunnel. E qui in Italia molti hanno ricordato Leisel, la triste pagina della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool nel 1985. Centinaia tra l'altro di feriti e poi l'inevitabile coda di polemiche e inchieste. Sentiamo un servizio di lunedì mattina firmato da Irene Privitera. Questa tragedia poteva essere evitata. Parla così Irina Di Vincenzo, la ragazza torinese amica della 21enne di Brescia, morta con altre 18 persone sabato pomeriggio a Duisburg durante la Love Parade. Fra le cose che Irina ha già denunciato alla polizia criminale in Germania c'è l'indifferenza delle forze dell'ordine. Molti non si muovevano dalle proprie postazioni, ha detto, e poi i soccorsi, troppo pochi per la gente che stava male. Infine gli organizzatori, che hanno previsto per l'evento un solo accesso a fare sia da ingresso che da uscita. vita. Subito definito tunnel della morte, largo 20 metri e lungo 200, era un vicolo cieco senza vie di fuga, dice ancora la giovane torinese che nella folla è rimasta ferita. Quando la Love Parade era stata organizzata a Berlino, gli ingressi erano 10. Su questi stessi aspetti si interroga la magistratura tedesca, che ha aperto un'inchiesta e sequestrato tutti i documenti degli organizzatori, per definire se si sia trattato di inadempienze o di veri e propri reati. Nel mirino delle critiche ci sono anche le autorità tedesche e le responsabilità rimbalzano fra gli organizzatori, la polizia e l'amministrazione comunale di una cittadina troppo piccola e inadeguata. La polizia locale attendeva 500.000 partecipanti all'evento musicale e invece erano quasi il triplo. Perché non dirigere altrove il flusso di persone, si chiede ancora l'amica della vittima italiana, verso il parco che era quasi vuoto. Già, perché? Ieri abbiamo visto una scena purtroppo diventata familiare negli ultimi anni, è retorico dirlo, ma è così. Mi riferisco al rientro delle salme dei due ultimi italiani militari caduti in Afghanistan, dove è in corso una guerra, chiamiamola con il suo nome, che si avvicina inesorabilmente al compimento dei suoi 10 anni, perché la guerra cominciò all'indomani dell'attacco alle Twin Towers, quindi bisogna veramente riavvolgere il nastro indietro nel tempo fino al 2001. Partiamo dalla cronaca dell'attentato con Anna Rita D'Ambrosio nei GR di giovedì mattina. È ancora un ordigno improvvisato ad uccidere in Afghanistan. L'esplosione di ieri ha investito in pieno due genieri occupati a perlustrare una zona vicino ad Herat, come ha raccontato il maggiore Mario Renna del contingente italiano. I due militari facevano parte di un team specializzato nella rimozione di ordigni esplosivi improvvisati, che era intervenuto intorno alle 20 locali per disinnescare una bomba rudimentale che era stata segnalata dalla polizia afghana. Forse è esploso successivamente un secondo ordigno comandato a distanza. Le indagini sono in corso. Una cosa è certa, quella deflagrazione potente si è portata via altre due vite. Quella del primo maresciallo Mauro Gigli, 41 anni, di Sassari, ma residente nel torinese, e quella del caporalmaggiore Pier Davide De Cillis, di 33 anni, di Bisceglie, in provincia di Bari. Due militari esperti, con al loro attivo numerose missioni all'estero e un elevato numero di interventi di disinnesco di ordigni esplosivi. Gigli doveva tornare la prossima settimana in Italia in licenza. Circa 20 giorni fa parlava così, intervistato al TG1. Il momento più delicato è sicuramente quando c'è l'approccio manuale da parte dell'operatore, che comunque deve affrontare l'ordigno. Ogni intervento è a sé. E comunque ogni intervento, dal momento che arriva l'attivazione fino alla conclusione, è tutto un susseguirsi comunque di tensione, adrenalina. Beh, fa un certo effetto sentire la voce del caporale, insomma, pochi giorni prima, poche settimane prima del tragico evento di 2 giorni fa. Abbiamo in collegamento Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, conoscitore dell'Afghanistan e nostro amico. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Alberto, vorrei cominciare con te, abbiamo pochi minuti ma li voglio spendere nel migliore dei modi con il tuo contributo. Da quello che tu hai detto proprio a Radio 24 all'indomani dell'attentato, insomma, in sostanza hai detto basta chiamarla missione di pace perché non è una missione di pace, quindi usciamo dall'ipocrisia. È una vera e propria, non dico missione di guerra, ma insomma siamo in un teatro di guerra o no? Ma non c'è dubbio perché chiaramente non si tratta di una guerra con le battaglie campali, grandi scontri, è una guerriglia logorante, di quelle che ti inchiodano per mesi e anni in postazioni e in avamposti sperduti, dove si combatte un nemico che non si vede e che è molto insidioso, come purtroppo abbiamo visto anche nel caso dei due militari italiani uccisi dalle mine. Insomma, è un conflitto in piena regola. Chiamarla missione di pace certamente non è la maniera più adeguata per indicare questa nostra missione laggiù. Tra l'altro ricordiamo che a rendere ancora più amara, ancora più cupa la settimana degli italiani, si è registrato anche il primo suicidio di un nostro militare domenica in Afghanistan. Alberto, seconda e purtroppo per noi, visto il tempo tiranno, ultima domanda. Vorrei allargare il discorso un po' a tutto il contingente occidentale, in particolar modo americano, in stanza in Afghanistan. Vorrei capire, proprio te lo chiedo brutalmente, che sta succedendo agli americani, perché prima abbiamo sentito l'intervista e tutto il caos che ha prodotto del generale McChrystal, poi in questi giorni questi 90.000 documenti militari classificati come segreti naturalmente, che finiscono invece bellamente online grazie allo scoop di WikiLeaks. insomma, che sta succedendo? Mi sembra che l'amministrazione Obama o comunque gli americani sul campo abbiano un po' perso la barra di quello che dovrebbero fare in realtà in Afghanistan. Non c'è dubbio, soprattutto perché si ragiona su un equivoco. Tutti stanno cercando una exit strategy, una via d'uscita. In realtà il vero problema è trovare un modo come restare in Afghanistan, come restare lasciando qualche cosa nel giorno in cui la NATO se ne andrà. E per fare questo le armi non bastano, le armi non sono definitive, non sono una soluzione. Ci vuole la diplomazia, e la diplomazia significa trovare una soluzione regionale e quindi negoziare con il Pakistan, con l'Iran, con i vicini dell'Afghanistan, almeno il tentativo di contenere questa guerriglia per poi costruire qualche cosa che serva anche alla popolazione afghana e alle sue istituzioni. Alberto, flash finale, ti chiedo veramente telegrafico un telegramma per chiudere. Tra un anno di questi tempi, quando si avvicinerà il decennale della guerra in Afghanistan, secondo te racconteremo lo stesso film di questi giorni? Non c'è dubbio. Non c'è dubbio, perché anzi io spero di raccontare un film un po' diverso, cioè dove magari la missione civile sarà un po' più prevalente rispetto a quella militare, ma non credo che ci troveremo in una situazione molto diversa da oggi se non verranno prese decisioni coraggiose. Grazie ad Alberto Negri per il suo sguardo sempre realistico, disincantato su questa terribile e complicata vicenda afghana. Adesso restiamo all'estero, perché voglio parlare in questi minuti che ci separano dalla fine della marea nera nel Golfo del Messico, perché in questi giorni c'è stato l'avvicendamento, a questo punto fatale, inevitabile, al vertice della BP. È andato via, è stato cacciato, per meglio dire, Tony Hayward, direttore generale, e al suo posto è in arrivo l'americano Bob Dudley, e chissà che l'accento del sud migliori almeno l'immagine della compagnia petrolifera britannica. Intanto giovedì è stato tagliato un triste, amarissimo traguardo, quello dei 100 giorni dal disastro nel Golfo del Messico, e sentiamo su questo il punto con Enrico Pagliarini nel GR delle 13 di giovedì. Parte da New Orleans la lunga serie di udienze per le migliaia di richieste di risarcimenti danni arrivate alla British Petroleum. La società sa che dovrà sborsare miliardi di dollari e pochi giorni fa ha deciso un accantonamento di almeno 32 miliardi. BP dice di essere pronta a pagare fino all'ultimo dollaro, a patto che i danni denunciati siano veri e giustificati. A 100 giorni dal disastro e a pochi giorni dallo stop definitivo della fuoriuscita di greggio, sembra che le acque del Golfo del Messico siano tornate alla normalità, perché almeno alla vista l'immensa macchia nera è stata ridotta ad alcune macchie che galleggiano al largo della Louisiana grazie al lavoro di speciali navi capaci di separare l'acqua dal petrolio. Ma la realtà è ben diversa. Scienziati ed esperti hanno riscontrato sott'acqua e sottoterra tracce di petrolio non visibili a occhio nudo, mentre molti pescatori denunciano che in parecchie zone del delta del Mississippi da settimane sono scomparsi pesci e uccelli. Prima di chiudere apriamo e rapidamente svolgiamo il tema sport della settimana. Allora, domenica si è chiuso il Tour de France, che è stato vinto da Contador, mentre il suo arcinemico, il suo arcirivale Armstrong, si trova coinvolto in un processo. Sempre domenica si è corsa la Formula 1, le Ferrari sono tornate al successo ad Hockenheim, ha vinto Alonso davanti a Massa, ma c'è stata l'evidente complicità di Massa nella vittoria, insomma il cosiddetto gioco di squadra che sulla carta non è previsto nel regolamento un po' ipocrita della Formula 1. Comunque la Ferrari torna in corsa per il Mondiale. E infine il calcio. Mercoledì sono stati compilati i calendari del prossimo campionato di Serie A. Chi vuole naturalmente può spulciare ovunque, anche su internet, gli accoppiamenti della propria squadra del cuore, mentre martedì è arrivato un annuncio a suo modo epocale dalla Rai. Ce lo spiega questo servizio di Nicola Accardo. Il commento più entusiasta è stato quello del commissario arbitrale dell'UEFA Pierluigi Collina, da sempre contrario ai polveroni sugli errori arbitrali spesso sollevati da ex arbitri addetti alla moviola televisiva. Tra questi c'è Daniele Tombolini, che fino ai mondiali in Sudafrica ha però messo in scena una moviola gentile, spesso condita dai duetti con Teo Teocoli. Calcio è un gioco, non vedo per quale motivo debba essere officiato come una cerimonia in cui c'è un sacerdote che dà la sentenza, qualcuno che dà un'opinione, così, con la faccia corrucciata. Quei sacerdoti sarebbero gli esperti della cosiddetta Cassazione, il nuovo metodo che userà la RAI per dare lezioni di regolamento sui tre episodi più dubbi della giornata. Sky è soddisfatta perché la RAI segue la filosofia lanciata proprio dal canale satellitare, mentre Sandro Piccinini di Mediaset è molto critico. Intanto ci credo poco, perché sono sicuro che quando ci sarà un caso eclatante se ne occuperanno anche loro, perché si tratta di cronaca. La Moviola non è il diavolo, perché si può sbraitare anche parlando della prestazione di un giocatore, non di un caso da Moviola, mentre si può analizzare pacatamente un fatto che però tutti hanno visto durante la partita, quindi non lo si può oscurare. Non poteva mancare infine lo sdegno di Aldo Biscardi, ideatore del processo in TV. Si dice sicuro che gli spettatori non saranno d'accordo. E siamo arrivati alla fine ai saluti, che oggi sono speciali un po' più del solito perché è l'ultima puntata di questa stagione dell'Ottavo Giorno, quindi ringrazio caldamente tutti voi cari ascoltatori che ci avete ascoltato in quest'anno, ringrazio naturalmente Alessandro Chiappini in regia, noi andiamo in vacanza, naturalmente la nostra mail è sempre attiva, ottavogiorno@radio24.it, e a questo punto buona estate a tutti.